Voglio contare bene i miei giorni. Leggo nella Bibbia, nel Salmo 90, versetti da 10 a 12. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni, e quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. Insegnaci dunque a contar bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. È passato un altro anno. E ogni volta mi ritrovo a riflettere sulla mia vita, e spesso mi ritorna in mente questo verso. Mi ricorda quanto sono fragile, provvisorio su questa terra, e soprattutto mi ricorda che la maggior parte delle cose che farò in questa vita, proprio quelle che a volte sembrano così importanti, viste alla luce dell'eternità, sono davvero poca cosa. Penso a quante cose ho sperato, aspettato e poi visto passare e diventare ricordo. Viaggio alla velocità di 24 ore al giorno, come tutti, verso il mio futuro che diventerà prima presente e poi passato, fino al momento in cui tutta la mia vita terrena apparterrà al passato. E ogni anno che passa sembra passare sempre più in fretta. Vedo i miei figli crescere, vedo i miei capelli, quei pochi rimasti, diventare sempre più bianchi. Come sto spendendo il mio tempo con le persone che ho vicino? Cosa sto donando di me agli altri? Quanto sono impegnato nelle cose in cui dico di credere. Quanto è importante che io impari a contar bene i miei giorni, ovvero a spendere il mio tempo nel modo migliore possibile, dando un significato ad ogni istante. Quanto sono preziosi i giorni che Dio mi ha donato qui. Non posso permettermi di sprecarli nella futilità. Come il salmista, anch'io voglio acquistare un cuore saggio, un cuore che sa distinguere che ci sono cose che hanno un valore eterno. Cose a cui vale la pena dedicare il proprio tempo, le proprie forze, le proprie energie. Signore, io ti ho conosciuto e voglio seguirti. Aiutami a non sprecare il tempo che mi hai dato di trascorrere su questa terra, ma a spenderlo con saggezza, sapendo che passa in fretta. Non voglio metterlo in una borsa bucata, nella quale alla fine non rimarrà nulla, ma voglio che sia un investimento per l'eternità.